Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un tema che dovrebbe interessare tutti, perché tutti più o meno siamo alle prese con i computer, con le connessioni, magari con l'home banking, con le operazioni che facciamo, con l'e-commerce quando acquistiamo qualcosa. Ecco, tutte operazioni che sembrano facili e banali, ma che possono nascondere qualche problema. E ne parliamo con un esperto del settore, Alessandro Curioni. Buonasera Curioni. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Alessandro Curioni, editore, imprenditore, un passato anche da giornalista, adesso scrive libri, si occupa di sicurezza informatica a livello professionale e ha scritto un libro che si intitola Come pesci nella rete, i pesci ovviamente siamo noi, guida per non essere le sardine di internet. Allora, siamo veramente dei pesci, Alessandro Curioni? Diciamo che siamo vari tipi di pesci, io mi riferisco alle sardine che sono quelli che si raccolgono con maggior facilità e anche in branchi molto cospicui. Questo perché dobbiamo pensare che negli ultimi anni il crimine informatico è diventato estremamente redditizio. Parliamo di un giro d'affari su scala mondiale di 550 miliardi di dollari e quindi quelli che una volta erano dei ragazzini che facevano degli scherzi adesso invece sono dei seri professionisti che non vedono l'ora di mettersi, diciamo, nei nostri panni, quelli in cui nessuno una volta voleva mettersi, adesso ci si vogliono mettere tutti e ecco, tutti. Quindi dobbiamo prendere qualche precauzione di fronte a questa realtà. Questo libro spiega come si può essere attenti a non fare dei passi falsi, quali possono essere i pericoli di entrare in questa rete che poi rischia di prendere, appunto, di catturare noi stessi. È lo scopo primario di questo libro, proprio quello di fornire delle indicazioni, dei suggerimenti attraverso anche storie, aneddoti, fatti di vita vissuta o fatti di cronaca che ci suggeriscono come dovremmo comportarci. Io dico sempre che una cosa fondamentale è nel momento in cui accendiamo il nostro computer o accendiamo il nostro smartphone, evitiamo di spegnere il cervello perché la combinazione delle due cose produce degli effetti terrificanti. Quindi considerare che il mondo reale e quello virtuale hanno delle interazioni molto ampie, che quello che facciamo da una parte ha ripercussioni su quell'altra e che dobbiamo imparare a tutelare i nostri dati personali, perché noi in fondo siamo merce, i nostri dati sono merce. Ecco, fatta appunto questa premessa, dobbiamo essere noi protagonisti, però facciamo ancora un passo indietro. Possiamo fidarci della rete? Possiamo fidarci, ecco, ammesso che noi ci comportiamo con tutte le caratteristiche di sicurezza, di prudenza e rispettando tutte le regole, ma ci sono comunque dei rischi, per esempio, a fare delle operazioni bancarie? Il nostro conto corrente che noi mettiamo su internet è in qualche modo attaccabile da altri anche a nostra insaputa? Allora, teniamo conto di una cosa. Io proprio in questo libro scrivo che fare atterrare un 747 su un'autostrada è possibile ma non è normale. Allo stesso modo vendere o comprare una lavatrice su internet non è diverso. Questo perché le logiche profonde della rete non sono quelle per le quali noi la usiamo oggi. Non è fatta per fare transazioni finanziarie. Però negli anni c'è stata questa grande rincorsa cercando di rendere quanto più è possibile sicuro per esempio le transazioni finanziarie. Ora, se il nostro home banking probabilmente ragionevolmente sicuro, fatto da personal computer, io sugli smartphone mi sento ancora un pochino preoccupato, sulle app, perché alcune recenti analisi di sicurezza effettuate su una sessantina di app di banche americane hanno dimostrato che oltre il 90% è vulnerabile, sull'home banking invece PC è ragionevolmente tranquillo. Consideriamo peraltro che il sistema finanziario negli ultimi anni ha subito perdite piuttosto pesanti legate ai crimini informatici. Il caso più eclatante è la banca centrale del Bangladesh, a cui hanno tentato di sottrarre 850 milioni di dollari dai suoi fondi alla Federal Reserve. Sono riusciti a prenderne soltanto una sessantina, però insomma 60 milioni di dollari non sono spiccioli. Ecco, comunque ci sono delle garanzie dal profilo, diciamo, tecnico, ma ci sono anche delle garanzie dal profilo giuridico, nel senso che a me, per esempio, personalmente mi hanno comprato un biglietto per l'India con i dati della mia carta di credito, ma sono riuscito nel giro di pochi giorni a farmi stornare questo addebito. Quindi su questo fronte i rischi ci sono, ma c'è anche qualche garanzia. Beh, ovviamente il sistema tende anche ad autotutelarsi. Le capisci che se nessuno le rimborsava quel biglietto era anche probabilmente l'ultimo biglietto che comprava online e di conseguenza il sistema mette a budget, come dire, delle perdite che sono legate a truffe, ma come ci sono nel mondo reale. Ora, il tema sul web è più legato al fatto che noi, in quanto esseri umani, non siamo abituati, non ci siamo evoluti nel mondo della rete e quindi abbiamo poca paura. Noi facciamo le cose all'interno di casa nostra, nel nostro ufficio, tutto molto tranquillo, non vediamo i rischi, certo, perché i nostri cinque sensi, che ci hanno permesso di fatto di diventare la specie dominante su questo pianeta, lì non funzionano più. Cioè, questo è in colore, in odore, in sapore, non vediamo niente, non sentiamo rumori e tutto appare molto tranquillo. Ecco, dobbiamo sempre pensare che è vero che ci sono strumenti giuridici, è vero che c'è una tecnologia che si evolve o cerca di evolversi nel senso della sicurezza, ma poi i piloti siamo noi, la macchina certo. La guidiamo noi. Ecco, la cosa interessante di questo libro è che non è un manuale tecnico, non dà delle istruzioni pratiche operative, nel senso che ci sono molti strumenti che offrono queste istruzioni, ma è un libro che si legge quasi come un racconto, che ha molti aneddoti, ha molta una capacità divulgativa che passa da esempi concreti, esempi appunto che ci fanno rendere conto che anche noi potremmo fare quelle cose di cui si parla nel libro, magari inconsapevolmente, quindi aiuta ad essere attenti, ad essere più aperti, appunto, a pensare che ci possono essere dei rischi concreti in quello che facciamo. Assolutamente sì, la prima riflessione è proprio quella sul rischio. L'altro aspetto importante che io in questo libro ci tenevo particolarmente è non usare alcun tipo di gergo di forma tecnica, perché doveva essere un libro per tutti. Io mi sono immaginato un lettore, che è un lettore di una persona che lavora in azienda e che magari in quell'azienda ha anche un posto di responsabilità, perché di solito questi, per esempio nell'ambito della criminalità informatica, sono dei target privilegiati. Il manager fa gola perché magari ha potere, può spendere, certo. Può decidere. Ecco, una delle istruzioni che si leggono tra le righe è quella di non usare le mail aziendali per fare le cose private. Eh sì, perché poi è lì che si fanno gli errori più marchiani. Racconto questo aneddoto di una persona che lavorava in questa azienda, aveva prenotato un pacchetto su un noto sito di e-commerce, arriva la notifica della consegna, dice che bello, apre, clicca, in realtà era un virus informatico, CryptoLocker, che gli ha cifrato tutto l'hard disk, e soltanto 2 secondi dopo si è accorto che in realtà non aveva usato l'email sua personale, ma quello dell'ufficio, e quindi gli è capitato sono riusciti a entrare nel tutto il sistema operativo dell'azienda. Ecco, ma è vero che sono coloro che producono gli antivirus che poi producono anche i virus per poi vendere gli antivirus? No, beh, adesso questo sembra anche un po' la leggenda, no, delle case farmaceutiche. In realtà no, perché non ce n'è bisogno, perché devo dire che consideri che ogni 40 minuti esce una nuova versione, almeno ogni 40 minuti una nuova versione di un virus, quindi le case produttori di antivirus non hanno questo problema. Ci sono delle aste proprio a cui chi produce i virus li mette all'asta tra varie organizzazioni criminali che fanno la loro offerta. Quindi non conosco queste, non partecipo a queste aste, però mi interessa molto l'aspetto divulgativo. Come sta l'educazione informatica nelle scuole italiane? Stiamo partendo, mettiamola così, siamo proprio al punto di partenza. In effetti io, per un editore, la Lattes di Torino, ho scritto un libro che sarà distribuito, è stato distribuito gratuitamente nelle scuole medie inferiori, dedicato proprio a come gli insegnanti possono affrontare il tema della sicurezza informatica con i loro alunni, perché l'età media attorno alla quale il nostro figlio, nipote, bambino o ragazzo si trova in mano uno smartphone è ormai 12 anni, 11, cioè, 12 anni. La prima volta ormai a 12 anni, la prima volta in cui si maneggia lo smartphone. Ormai sì, ci vorrebbe una patente, però 12 anni sono piccoli per la patente. Quindi. Sì, in effetti i rischi ci sono, i rischi anche non solo di sicurezza appunto dal profilo finanziario, ma anche della sicurezza dal profilo anche educativo, perché poi nella rete ci sono i pesci anche che sono somigliano molto agli squali. Sì, somigliano molto agli squali. Considerate che già nel 2011 una ricerca dell'Università Statale di Milano aveva dimostrato come sui social network i famosi 6 gradi di separazione, la legge secondo la quale tra noi e qualsiasi persona nel mondo non ci sono più di 6 passaggi, quindi 6 intermediari, in realtà su un social network come Facebook si era ridotta a 4. All'epoca aveva 800 milioni di utenti, oggi ha 1.800.000.000 di utenti. Quindi tra nostro figlio e probabilmente la sua star preferita ci sono magari 2 o 3 persone. Il problema è che anche tra nostro figlio e un maniaco ci sono 2 o 3 persone. E quindi l'attenzione deve essere suprema, l'attenzione appunto ad educare a queste realtà. E non è semplice. E la stessa rete forse di per sé è un po' diseducativa, abitua un po' alla velocità dei rapporti, a saltare da un posto all'altro, allo zapping informatico. Sì, noi siamo tornati a guardare le figure, nel senso che abbiamo avuto una regressione, abbiamo smesso di leggere e guardiamo le figure. Se qualcosa ci appare familiare al primo sguardo, non è che ci mettiamo a leggere e cerchiamo di capire, no, ci facciamo cogliere da sindrome da click compulsivo e avanti avanti, accetta accetta, salta di qui, salta di là, senza avere la benché minima coscienza di dove stiamo andando e di che cosa stiamo facendo. E quindi bisogna ogni tanto fermarsi, come dice la storia finale di questo libro, sotto un albero, prendere le nostre piccole provviste, pensare che facciamo un pranzo da re, ma pensare appunto che quello che noi facciamo, a insegnare poi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che quello che fanno può essere molto importante per la loro vita. In un piccolo attimo ci può essere appunto un esempio di verità, ma anche un esempio di grande isolazione, di grande individualismo, di grande solitudine. Assolutamente, ma soprattutto pensare che quello che facciamo oggi ha dei risvolti su domani. Cioè, oggi faccio un esempio banale: tutti gli uffici risorse umane, selezione del personale, dopo che hanno fatto un colloquio con un candidato, esplorano tutti i suoi profili sui social network per completare il profilo. Ora, perché a 14 anni o a 16 anni io posto un'immagine della quale poi mi pentirò amaramente a 18? Perché poi sappiamo tutti che internet non dimentica. Non dimentica. Ecco, questa è una delle realtà. Bisogna pensare che abbiamo a che fare con qualcosa che supera anche la nostra memoria, ma dobbiamo avere un'attenzione profonda. Comunque, Curioni, è possibile avere questa attenzione? Certo, assolutamente, è nelle nostre capacità. Per avere questa attenzione, per avere questa responsabilità di fronte ai nostri comportamenti, è anche utile leggere libri come questo. Grazie a Alessandro Curioni, che è stato con noi questa sera. Ricordo ancora il libro Come pesci nella rete, guida per non essere le sardine in internet, edito da Mimesi, sono 146 pagine per 10 euro. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.